senti? Mi senti? Ehi, a forte chiasso. Sentendomi, sì. Ehi, già ti sento. Famone! Sentendomi, sì. Dani, mi senti? Mi senti? Sì, a voglia. Però io a te ti sento basso, Aspetta. Che sento, Danilo! Ma ci sei? Danilo! Dimmi. Beh, Dani. Da bello. E tanto. Così, sei gregato in casa? No, guarda un po' di minsa. La radio. Dove sei? In campagna. Da ti ascolto, là. Un po' bassino, ma ti ascolto. Sei basso perché sto usando l'antenna piccolina della radio. Vabbè, già arrivi comunque, là. Oh, vabbè, ti sento che sono qua a zona latte dolce, Ah, ecco perché. Pure tu agli arresti, sì. Cosa? Ho detto anche tu agli arresti, sì. E allora? Se lo governo te la fendi fammi. Perché avete chiuso? Ehi, ha voluto chiudere. Ieri siamo andati dalle 8 alle 11 e poi ha voluto chiudere. Perché non stava arrivando nessuno. Perché la gente ha paura. Sono tutti i ganti gaggati in nanto. Sai che Sassa è diventata una zona rossa, lo sai. Vabbè, con tutti quanti quei casi che sono successi all'ospedale, sì. Normale che la gente ha paura. Da due, siamo praticamente più di Cagliari. È un bel po' siamo adesso. Siamo 72, 73 se non sbaglio. Pacari dai, bubu. Vabbè, Ludrumi tu dici. Tutti abbronzati siamo, zona rossa. Capito. Ma non è che ti sei bucciato durante lo forno microonde, no? Cazzo, mi tocca magna torta, ghito, ghidasto, passa al forno, Dai, giuro, le palline piene, beh, grazie. E cosa c'è questa? Giù in San Marino, va, col cagnolino. Mi sto guardando il telefono, video, queste cose. Ah, l'hai visto quella che ti ho mandato che scorriccia? Se ne abbiamo avuto di guru. Mi abbassaggio. Per carità, non l'hai vista. Quando si apre di già, più una ventosa. Chissà se va a dare giù che non esci più. Per carità, quella è la temerimi. Sì, no, io sono singolo in trio. E allora, chi ci ha fatto di ventosa, una sanguisuga, E chi ti imbriagoni, vicino, ci dita ci mandato. A conso. Guarda quello... Su Facebook l'ho pubblicato nella mia bacheca, era quel tipo, doppio di rondelle in faccia. Adesso stavo guardando perché mi hanno accettato l'amicizia in questo ricetrasmittente Vittaggi su plus militare. Ho capito, cos'è? Ma un gruppo? No, ho chiesto l'amicizia io l'altro giorno. Adesso me l'hanno accettata, c'è scritto ricetrasmittente Vittaggi. Radio antiche, radio di guerra ci sono, capito? Non so se è un gruppo, mi lo sto guardando adesso che ho visto il messaggio. Attenzione, se questo gruppo è possibile per i membri anche mettere in vendita o proporre scambio propri materiali. Puoi anche vendere, mettere cose tue a vendere. Ho capito, ti puoi bere, dai. È una cosa del genere. E vedi, fa sotto sua esclusiva responsabilità, amministratori, e poi si danno il permesso praticamente a metterti cosa in quella bacheca di loro a vendere o con pareggi. Non va bene, grazie. Io già non c'ho nulla da vendere, cioè vuole l'MB, ma il Mobicom da vendere. Ma va, me ne sto guardando una, caspita, questa è il militare la radio, un abbezzo di radio, ui, caspita, che è complicato davvero. Poi è il militare, c'è il colore del militare, verde, tutta la strumentazione antica lì, a valvole, già ve ne è poco di cosa. Però se c'è cosa a chilometri, E tutto va bene. Però sono belle, a me mi piacciono quel tipo di radio così. Sono militari queste, anche il telefono c'è, la cornetta c'è, mi poi c'è il voltometro o aperometro, cosa si chiama, bello è. Questa è tutta roba antica, che funziona perfetto, sono professionali queste radio. Oh, grazie, vuole rispondere soldi? No, ma pavidini non si ballano. E se sono un sacco belle, mille un'altra, caspita, pure i maniglioni vai. Bella, è un caraccio bar. E come si chiama questo posto? Allora, questa radio è E3009A, va a bomba, questa radio qua. No, il sito dove sei iscritto. Aspetta che te lo dico. Gruppo privato, è un gruppo privato, si chiama Ricetrasmittenti Vitaci, è sul plus militare. C'è un gruppo di militari inchinati con le radio a spalle c'hanno. Ma su Facebook? Ehi! Aspetta un attimo il telefono. Grazie. Dimmi. A chi sei, Acci? Ti ho mandato quella canzone di Parugi, me la sto ascoltando. Ah, te l'hanno mandata? No, su Facebook, l'ho mandata a te, Parugi. Rombe. Illu. A che se faccio un valioso grazia. Giomari. Illu. Dai, arrivo dopo che sono al computer. Illu. Ma mi senti? Abbastanza forte. Oh, allora va bene. È stazionario. Uno e due. Quello che c'hanno sempre, ce li hanno sempre così. No, l'ho fatto io quest'antimino, Da un pezzo di filo. Capito? Volevo provarlo a vedere se andava bene. Capito? Arrivi benissimo, arrivi qua. Allora, tranquillo, allora lo posso lasciare così. Lascialo così, Giomari. Ok, meglio così, va. Mi fa piacere, cazzo, visto. Anch'io adesso mi metto a costruire antennini. Ho fatto più nulla io di questa cosa, muore tutto così. E per annoiarti, capito? Io sto annoiando, che ma qualche cosa ai venti, specialmente in questo periodo che siamo arresti domiciliari. Andiamo, vai, andiamo. E allora, vabbè, dai, andiamo il 27. E a Giomari. Ok, dai, dammi tempo a, che lo distacco questo cipollino. Andiamo, vai, andiamo. Che è?